Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Cile con Andrea De Carlo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Dopo tante chiacchierate con gli scrittori, mi rendo conto ormai che visitare un paese attraverso le loro parole è davvero stimolante, ma lo è di più se in quel paese ci sono già stata. Ed è quello che sta per succedere oggi, in una bellissima casa di Ringhiera a Milano, dove mi aspetta Andrea De Carlo. A me è capitato di girare molto e continuo a farlo molto. Viaggio, mi piace molto. Del viaggio la cosa che mi piace di più è il cambiamento di prospettiva, cioè il fatto che girato l'angolo tutto è diverso e nello stesso tempo simile, ma cambiano i climi, cambiano le lingue, cambia il modo di vivere le cose sostanzialmente. Quindi mi è capitato di viaggiare in varie parti del mondo, ma un luogo in particolare che volevo vedere e conoscere era il Cile. Nome: Repubblica del Cile. Capitale: Santiago del Cile. Confini: Perù a nord, Bolivia a nord-est, Argentina ad est, Oceano Pacifico a sud-ovest. Superficie: 755.838 km². Abitanti: 15.116.000. Clima: tropicale, temperato, oceanico freddo. Forma di governo: Repubblica presidenziale. Lingua ufficiale: spagnolo, più dialetti amerindi. Fuso orario, meno 4 ore rispetto al meridiano di Greenwich, meno 5 rispetto all'Italia. Documenti, passaporto con almeno 6 mesi di validità. Moneta, pesos chileno, un peso uguale 0,0015 euro. Religione, cattolica 70%, protestante 15%, atei non religiosi 8%, il restante 7% si divide tra ebrei, musulmani e ortodossi. Prefisso internazionale, più 56. Perché dal Cile veniva la mia nonna paterna. E fra l'altro lì c'è una storia molto strana, perché è una donna che non ho mai conosciuto, benché sia morta quando io avevo già forse 18-20 anni, ma mio padre era cresciuto convinto che fosse morta, in quanto in una di quelle storie quasi ottocentesche il matrimonio fra lei e mio nonno era finito prestissimo per una crisi che non è mai stata spiegata. Ma insomma, questa donna sparì dalla mia vita di mio padre quando mio padre aveva 2 anni. E lui seppe che questa madre era viva quando compì 18 anni, per cui una di quelle storie proprio da feuilleton dell'Ottocento. Dopodiché, peggiorando ulteriormente la situazione, non si sognò mai di dire a me e mia sorella che questa nonna era vivente e si era a quel punto trasferita in Francia. Però quello che poi è successo una volta che ho scoperto di questo passato, che fino allora era molto sfumato e vago, è stato che naturalmente ho cominciato a desiderare di sapere qualcosa di questo retroterra, che non era un retroterra insignificante, perché era visibile per esempio nei tratti fisici di mio padre, nei suoi occhi, c'era questo aspetto sudamericano, era molto presente, e non solo come dato estetico ma proprio caratteriale. Mio padre era per la metà italiana, era di origine siciliana e aveva questa, quindi veniva molto dal sud del mondo, diciamo, mentre mia madre era piemontese, per cui in queste origini naturalmente c'erano molte ragioni di curiosità e di interesse. E forse proprio per quello a lungo ho pensato ad andare in Cile, ma nel frattempo giravo altre parti del mondo. Cile, il salitral violento, la pampa de pugno seco, una bandera de fuego, tu pampa quiero. Anduve caminando sobre el salitre. Il Cile raccontato da Andrea De Carlo alla ricerca delle sue origini diventa subito familiare anche a me. Forse è perché ci sono già stata, o forse è il trasporto con cui lui mi accompagna in questa parte del Sud America che fa il resto. A pensarci bene, comunque, in ogni viaggio ognuno di noi è un po' come se andasse alla ricerca di sé, anche se non ha antenati da andare a cercare. Finalmente ci sono andato partendo dall'Argentina. Quindi come passando un periodo di non so come definirlo, ma di acclimatamento. E quindi ho passato prima un mese in Argentina, dopodiché finalmente da Buenos Aires ho preso un volo che mi ha portato a Santiago del Cile. E è difficile immaginare un contrasto più forte, perché l'Argentina è un paese per molti versi, dal punto di vista geografico, è un paese molto sudamericano, con queste pampas confinate, questi fiumi che attraversano le pianure, ma la popolazione è molto europea. Guardandoli, gli argentini sono molto, potrebbero essere, camminando per le strade di Buenos Aires, si potrebbe essere nel Nord America o in una città europea. La prima impressione fortissima, volando attraverso le Ande e atterrando a Santiago, era stato proprio l'aspetto delle persone, che erano improvvisamente scure, piuttosto basse. E mi ricordo soprattutto questo mare di occhi scuri, intensi, intensissimi, mentre la popolazione argentina ha pochissimo, ma è solo in certe zone dell'Argentina c'è l'eredità del sangue indio. Nella popolazione cilena è lì, lo vedi dappertutto. E quindi mi ricordo proprio l'arrivo, subito arrivato all'aeroporto di Santiago, questo mare di occhi scuri, che poi mi ricordavano molto quelli di mio padre e quelli della mia nonna cilena, che avevo visto solo in fotografia e solo molto tardi. Visto che davanti a me c'è chi ha iniziato la sua carriera di scrittore sotto l'ala protettrice di Italo Calvino, mi viene in mente proprio un passo delle Città invisibili che mi sembra si combini bene con le sensazioni che Andrea mi sta descrivendo. Arrivando ad ogni nuova città, il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più di avere. È una cosa misteriosa che succede però a chi torna in un luogo a cui è legato per ragioni di sangue, in cui non è stato mai prima, ma questo strano riconoscere i luoghi. Per cui mi capitava di camminare, per esempio, attraverso una piazza e avere la sensazione di conoscerla. Ci sono queste chiese in stile spagnolo, costruite del resto dagli spagnoli, e comunque in quello stile coloniale, quelle chiese bianche, quelle strutture che sono rimaste poi nei secoli così come erano state costruite allora dai conquistatori. C'è questa sovrapposizione di culture che è forte in tutto Sud America, ma che nel Cile è ancora più evidente, proprio perché esistono popolazioni di fatto separate. Appunto, esiste questa classe dirigente in gran parte di origine spagnola o anche tedesca, perché poi ovviamente le origini europee sono molto sovrapposte. Donde sta mi negra bailando con la saya de tumbiqui bailando con la saya de tumbiqui bailando donde se ha metido mi negra cargada de su guaguita bailando cargada de su guaguita bailando. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Cile con Andrea De Carlo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Andrea De Carlo è seduto sul divano di casa sua a Milano e mi sta portando alla scoperta del Cile, di quel Cile che lui sente scorrere nel suo sangue. Il suo viaggio è infatti un viaggio alla ricerca delle origini, delle radici che sono di questo paese, ma che appartengono anche a lui. E quindi io mi ricordo un periodo passato nella città di Santiago, un po' alla ricerca dei caratteri del luogo. E mi ricordo una delle cose più difficili da trovare allora, quella prima volta, era la musica, per esempio, che a me ha sempre interessato molto e credo faccia sempre molto parte della cultura profonda dei posti. Quello che mi sconcertava, Santiago, era sentire che nei bar e nei posti dove c'era la musica suonavano Eros Ramazzotti, ed era uno dei sintomi della globalizzazione, no? Il fatto che la musica cilena apparentemente era introvabile. Mi è capitato poi di trovarla, ma viaggiando parecchio, nel senso che nei luoghi standardizzati, diciamo, dell'Occidente imperante, la musica era quella lì, quella che ascolti ovunque. La musica è lo specchio di un paese. Certamente uno si aspetta di trovare qualcos'altro a rappresentare il Cile che non Eros Ramazzotti. Ma De Carlo non mancherà di parlarcene. E poi da lì sono andato a Viña del Mar, che era il luogo dove mia nonna era nata, in questo viaggio un po' di ricerca. E poi ho cominciato un viaggio verso il sud, nell'emisfero meridionale è come viaggiare in Europa verso il nord. Per cui allora era agosto, quindi il loro inverno, e mentre a Santiago c'era un clima mite e molto piacevole, andando verso il sud il freddo cominciava ad aumentare. E una delle cose più sorprendenti viaggiando verso il sud del Cile è come il paesaggio assomigli rapidamente a un paesaggio alpino. Ci sono queste montagne che poi sono vulcani in gran parte, coperte di neve, e c'è un paesaggio di laghi. E fra l'altro la cosa più curiosa, o una delle cose più curiose, è che anche la popolazione tipo alpino, perché ci sono moltissime comunità di origine tedesca, per cui si vedono questi tedeschi con i loro tratti, appunto, con i loro colori chiari, con il loro anche stile preservato nel tempo molto gelosamente, che fra l'altro si dedicano ad attività tipo un certo tipo di agricoltura, o anche per esempio fanno per esempio formaggi, hanno dei caseifici, fanno delle cose come potrebbero fare, non so, in Baviera, in un paesaggio che è una specie di Baviera, ma è una Baviera sudamericana. Mi piace questo cambiamento cromatico e non solo climatico, che passa dal mare di occhi scuri, come li ha definiti De Carlo all'inizio, ai colori chiari della Baviera sudamericana. E il viaggio è solo cominciato. Si io no tengo lugar, si io no tengo lugar en la tierra, y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento, y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. E da lì poi il viaggio poi diventa sempre più affascinante, perché poi scendendo, andando a sud, si arriva agli estremi poi del continente, per cui si arriva poi alla Patagonia. Io mi ricordo che a un certo punto avevo dovuto fermarmi perché ero impreparato al clima, per cui non avevo neanche i vestiti giusti, ed ero anche molto affascinato dal deserto, e quindi avevo voglia di fare il percorso inverso. Quindi arrivato a un certo punto, agli inizi della Patagonia, in cui il territorio comincia a sfilacciarsi, percorrendo l'autostrada panamericana, che già in sé è estremamente affascinante, perché è questo nastro di asfalto che percorre tutto il subcontinente e poi l'altro, quindi praticamente costeggiando uno può andare dal sud del Cile, continuando sempre lungo la costa pacifica, arriva su fino a San Francisco e oltre. Una strada che collega le Americhe. Quanto può essere affascinante percorrerla, e non solo oggi, come prosegue De Carlo. Già quest'idea è molto affascinante, e poi mi capitava anche di leggere di storie di personaggi che avevano fatto l'impresa di percorrere tutta la costa pacifica. E un personaggio in particolare, un certo Mascaldo, che aveva fatto un viaggio con due cavalli argentini molto robusti, evidentemente ed era arrivato fino agli Stati Uniti agli inizi del Novecento. Anche per lui leggere di esperienze di altri viaggiatori è uno stimolo al viaggio, ma a sollecitare i sensi c'è soprattutto la geografia, la natura, la gente. È sicuramente una sensazione molto forte la presenza del Pacifico, che poi è un mare spesso inquietante, perché ha queste onde, ci sono queste spiagge, c'è un grande senso di spazio, perché poi fuori da Santiago il paese non è certamente sovrappopolato, perché c'è un grande senso di spazio libero. Ci sono le spiagge con pellicani, cormorani, c'è questi ciottoli smossi da questo oceano che si muove incessantemente, le grandi onde, c'è un senso di immenso che si respira lì, e venti che soffiano dal Pacifico che ti arrivano addosso questa sensazione di un altro pianeta, insomma, fuori dal contesto della civilizzazione, quindi di questa, che poi sostanzialmente è a Santiago. Lì c'è questa, appunto, questa città di origine molto europea che ha questa solidità secolare, ma fuori da lì c'è appunto un universo completamente diverso, che infatti era stato poi abitato da popolazioni lontanissime da quelle europee, per cultura, per origini, per tutto, per abitudini. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Cile con Andrea De Carlo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Sud America, e più precisamente Cile. Ci sono arrivata con Andrea De Carlo, che dal mare di occhi scuri di Santiago mi ha condotta poi verso i tratti di origine tedesca della Patagonia. Adesso sono pronta per attraversare con lui il deserto di Atacama. L'altra parte, forse quella più affascinante di quel viaggio, era stato il grande attraversamento del deserto, vale a dire questo deserto di Atacama, di cui poi recentemente si è parlato negli ultimi tempi per l'episodio dei minatori che erano rimasti imprigionati. In realtà è un universo, è come essere sulla superficie di Marte, è uno dei deserti più estesi e più alieni alla vita umana che ci si possa immaginare. Io sono sempre stato affascinato dai deserti e ne ho visti poi vari, dal deserto del Negev al Sahara, al Nevada, però il deserto cileno è qualcosa di diverso, come su un altro piano, forse perché appunto è lì nel fondo del Sud America, è anche un deserto alto, per cui sei molto più alto di come pensi di essere. E poi ci sono le tracce di tutta questa vita di perforazione, tutte le miniere che per secoli hanno rappresentato la ricchezza del Cile, ed erano soprattutto miniere di rame, ma poi anche di altri minerali, ma che comportavano per esempio la costruzione di tratte di ferrovia, perché poi bisognava portare le persone, farle sopravvivere in condizioni in cui nessuno sopravviverebbe, e poi portare via naturalmente il minerale, per cui venivano costruite queste ferrovie che arrivavano, e venivano costruiti dei villaggi che ora sopravvivono quasi tutti come villaggi fantasma. Che emozione avere sotto ai piedi la terra del deserto di Atacama e sopra la testa il cielo più incredibile che esista. Un altro aspetto del Cile che mi ha molto colpito sono i cieli. E proprio nel deserto di Atacama c'è un osservatorio stellare, perché quello è uno dei luoghi dove c'è meno inquinamento luminoso, proprio per la distanza enorme dalle città, ed è particolarmente, insomma, il cielo cileno è immenso. Quando lo si osserva dal deserto è una cosa sconvolgente, nel senso, forse anche l'altitudine, che ovviamente è niente in termini di distanze stellari, ma rende l'aria più chiara, c'è meno filtro atmosferico, per cui la brillantezza delle stelle o della luna è sconvolgente, c'è questa luce fortissima. In una notte di luna piena il deserto è completamente illuminato e ti sembra di poter vedere senza telescopio, senza neanche cannocchiale, vedi i crateri della luna, vedi le valli della luna, e questo me lo ricordo come una sensazione intensissima. Ed è un'altra delle cose che fai meglio se viaggi da solo, se scopri luoghi così man mano che ci capiti. Certo, avendo un'idea più o meno di dove sei, anche perché è anche pericoloso altrimenti. Quando attraverso un deserto devi sapere, per esempio, che non c'è una stazione di servizio ogni 10 km, quindi devi stare ben sicuro di avere il serbatoio pieno di benzina, di avere acqua con te e queste cose essenziali. Maldigo il alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, yo del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con su bochorno, cuánto será mi. Il deserto non è un luogo da attraversare alla leggera. È bene avere sempre una guida, come Pedro, il mio accompagnatore, un ragazzo di Santiago che si guadagnava da vivere coi turisti e che per la prima sosta del pranzo mi ha portato in un luogo che aveva dell'incredibile. Dal racconto di De Carlo ho il presentimento che siamo stati nello stesso posto. Lì anche nel deserto ci sono dei piccoli insediamenti poi di turisti che viaggiano esplorando e quindi hanno dato vita come a dei luoghi che di quello vivono, per cui mi ricordo un posto di cui non ricordo però il nome, proprio nel deserto di Atacama, dove c'è una specie di comunità un po' hippie, dove c'erano delle locande come stile anni 60, dove veniva cucinata quella cucina un po' improvvisata e dilettantesca per questo popolo di viaggiatori che si fermavano una o due notte esplorando il deserto, per cui c'era un clima anche estremamente, estremamente divertente e anche imprevedibile. La sorpresa appunto di trovare queste piccole comunità in luoghi dove non ti immagini di trovare proprio nessuno, dove poi per esempio ci sono dei nomi spagnoli che fanno paura e ti danno l'idea proprio di quanto sia fuori, non so, è l'indio muerto, è il cavallo muerto, perché in realtà sono posti dove c'erano degli scheletri un tempo e uno indicava su una mappa ricordandosi appunto questo unico indicatore del punto che avevi raggiunto. Che colore ha il deserto e che profumo? Chiedo ad Andrea se ha avuto qualche sollecitazione particolare in questo senso. Beh, io mi ricordo molto l'odore della brezza dell'oceano, quindi che poi brezza che diventa poi anche vento molto forte a volte e trascina con sé questo odore salso, questo odore di conchiglie, di alghe. Ci sono anche ovviamente ci sono dei letti di alghe che vengono smossi dall'oceano e trascinati sulla riva, per cui questo odore lo sento, me lo ricordo ancora molto forte. Poi c'è l'odore del deserto, che è un odore minerale, molto, è un odore ferroso, un odore di anche lì non contaminato da attività umane, perché poi quando sei nel deserto e ti fermi sei a distanze enormi da città o centri abitati, per cui l'odore è quello della terra, dei minerali che sono nella terra e poi l'odore di quei pochi cespugli che ci sono. Poi dipende dalla stagione in cui ci sei, ma se sei in primavera c'è l'odore dei fiori, dei cespugli, poi se capita una pioggia, di quelle piogge che di colpo fanno rivivere il deserto, hai di colpo questi odori che sono selvaggi e penetranti di questi fiori, i fiori dei cespugli selvaggi. Per cui, come tutti i posti dove hai una grande sensazione di spazio, tutti i sensi sono molto attivati, per cui il senso della vista è molto stimolato, perché hai cieli che di giorno sono intensamente blu o azzurri e di notte intensamente neri oppure illuminati intensamente dalle stelle, e i colori sono molto forti. Appunto il deserto di Atacama ha dei rossi molto intensi e il mare ha dei colori intensissimi. E poi sono molto intensi i verdi delle zone verdi, quindi delle coltivazioni, dei vulcani a sud di Santiago. Per cui c'è questo senso cromatico molto accentuato. Però appunto sono tutti i sensi. Per esempio l'udito, quando uno è nel deserto l'udito si diventa ipersensibile, per cui il silenzio diventa solido quasi, si potrebbe dire, molto percepibile. E poi qualunque suono attraverso questo silenzio si amplifica, per cui non so, di colpo magari c'è un falco che vola e lancia un urlo, questo stridio che riverbera nell'aria, non è soffocato da nessun altro suono. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomitas, un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita. Compagni di viaggio. Compagni di viaggio. In Cile con Andrea De Carlo. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. In Cile con le parole di Andrea De Carlo. È come se partecipassi della sua ricerca delle origini in un viaggio alla scoperta di sé. Dopo la magia dei cieli del deserto di Atacama e l'odore della brezza del Pacifico, torniamo alla musica, che al mio accompagnatore interessa particolarmente. Ma quello che mi incuriosiva era scoprire, data l'evidenza di due piani in un certo senso paralleli, appunto il piano di quelli che ancora oggi hanno i tratti degli Indios, i colori, gli sguardi e anche quella misteriosa maniera di osservare, mi ricordo, di percepirti come straniero, di studiarti in un modo che non è esplicito, ma è molto intenso. Mi ricordo proprio l'emozione, appunto, di questo sguardo indio, che pure era parte di me, comunque, faceva parte di una mia eredità. E quindi insomma mi incuriosiva scoprire, per esempio, la musica, qual era la musica, esisteva ancora la musica del Cile pre-spagnolo? Visto che a Santiago mi ha raccontato di aver sentito solo Eros Ramazzotti, adesso sono curiosa di sapere come ha soddisfatto la sua voglia di capire questo paese attraverso le melodie che vi si cantano da sempre. Ho finito per trovare alcuni esempi di quello che c'era proprio andando al nord, andando agli estremi proprio del nord cileno, dove a un certo punto mi è capitato al nord di un paese, di un centro più grande che si chiama Iquique. Mi ricordo di aver viaggiato proprio così all'avventura, senza, non avevo mappa, cioè avevo una mappa, ma non avevo guide. È una cosa che non ho quasi mai, una guida da seguire, preferisco sempre scoprire le cose così come capita. E mi ricordo di essere arrivato a un villaggio molto piccolo, a una cinquantina di chilometri da Iquique, dove il luogo era così antico che mi dava l'idea di come poi le culture, diciamo, neanche primordiali si poteva dire, ma le culture primarie si assomiglino tra loro, perché questo villaggio mi assomigliava nell'aspetto a certi luoghi che avevo visto in Medio Oriente, per esempio mi ricordavo un villaggio, per esempio, palestinese, un piccolo villaggio. Queste case che sono fatte di pietre e fango, la polvere della strada, i vestiti delle persone, ridotti proprio all'essenziale, no? E lì c'era qualcuno che, per esempio, suonava un charango. Che è uno strumentino a corda il cui fondo è fatto dal corpo di un povero animale che si chiama armadillo in italiano, che è uno strumentino che è un adattamento di uno strumento spagnolo, sostanzialmente è come una minuscola chitarra, che però poi diventa molto sudamericana, perché appunto questo corpo di questo povero animale sudamericano che viene mangiato, ma poi di cui viene usata questa pelle, che ha una pelle molto dura, cornea, è come una corazza proprio. E suonava una melodia molto antica, molto assolutamente pre-spagnola, era una melodia lontanissima nel tempo. aquella calle viene una guitarra de plata y las cuerdas van diciendo: el amor es el que mata a la vida rica. Súbete a la torre, a la vida mía, qué viento que corre. A la vida linda, súbete a la torre, a la vida mía, qué viento que corre. Al pensiero di lasciare questi luoghi per tornare a casa mia, mi sento malinconica. Per me è un po' come se fosse un secondo addio a questa terra. Le parole di De Carlo mi hanno davvero riportata là. Prima di salutarci, vuole dare un suggerimento a chi decide di far visita al Cile. Ci sono molte caratteristiche del Cile che sono, secondo me, uniche. E poi basta guardare la carta geografica per capire che è un paese straordinariamente lungo e straordinariamente stretto. E perché da un lato è arginato dalle Ande, che quindi lo chiude. In un certo senso poi i paesi si formano in base a ragioni storiche che sono però molto legate a ragioni geografiche, per cui nel corso della storia, per esempio, il Cile e l'Argentina sono stati in guerra, ci sono state contese su territori minerali. Ma la cosa buffa è che una cosa che io consiglierei a chiunque voglia viaggiare in Cile è di passare dall'Argentina, perché l'Argentina è un paese parallelo e tutte le zone che tu trovi nel Cile hanno un parallelo in Argentina dall'altra parte delle Ande, per cui c'è il deserto anche in Argentina, c'è la Patagonia scendendo verso sud, ma viste e si potrebbe dire interpretate in due modi molto diversi, da popolazioni che sono sostanzialmente diverse, e quindi con uno sguardo che cambia, con un'atmosfera che cambia. Chissà che il mio prossimo viaggio in Cile non preveda una tappa proprio in Argentina. Del resto ho promesso di tornarci secondo un rito che forse è da turisti, ma mi è piaciuto moltissimo, ovvero quando sono stata in visita all'Isla Negra, alla Casa del Mare di Pablo Neruda, ho lasciato, come da tradizione, sulla staccionata di legno, un mio segno. Si dice che questo basti per farti ritornare. E a proposito di letteratura, chiedo a De Carlo se ha mai scritto del Cile. Naturalmente il Cile è un luogo che può ispirare proprio per le sue atmosfere, può essere una forte ispirazione anche letteraria. A me non è capitato di scriverne, perché poi, diciamo, la narrativa ha dei percorsi molto strani, per cui attinge continuamente dalla vita di chi scrive, ma non in un modo diretto e tantomeno automatico, per cui non mi è mai capitato di fare un viaggio, tornare e scriverne. Ma l'impressione dopo questo viaggio di parole è che non dovremo aspettare molto per leggere un suo libro di ambientazione cilena. In un certo senso col Cile, forse perché il rapporto è sempre stato dall'inizio così personale, ho voluto mantenere un rapporto anche letterariamente personale. Per cui quello che vorrei fare è un giorno appunto raccontare una storia che è ambientata lì. E forse proprio perché è una storia che deve radici lontane, è una storia che ha dovuto aspettare parecchio tempo prima di essere scritta. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro. Ora Andrea De Carlo è in libreria con Lei e lui, edito da Bompiani. Perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto.